Non se ne esce, la maggioranza resta spaccata sull'uso del fondo salva stati e si va presumibilmente al voto sul MES a settembre, con il PD che preme, Conte che resiste per tenere buono un pezzo importante del Movimento 5 Stelle e presumiamo per tirare fino alle regionali. Il tutto mentre il governo dovrebbe approvare nei prossimi giorni il decreto semplificazioni. Non dovrebbe esserci il famoso modello Genova, ma un ampio ricorso agli affidamenti diretti e, circola voce, anche un condono, destinato ad accendere ulteriori dibattiti, come quello sul bonus babysitter, destinato anche ai nonni, che non manca di suscitare qualche perplessità anche nella stessa maggioranza. Il fronte Covid ci racconta di una grande confusione su quale distanza tenere sui treni. Ogni regione fa per conto suo e di una Lombardia che sceglie di mantenere l'obbligo di mascherina fino a metà luglio. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 mattino" di Simone Spezia. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:32 minuti, è martedì 30 giugno. Con Florence and the Machine che ci invita, con Florence ci invita alla moderazione, vedremo se sapremo mantenerla. La task force di questa mattina: Carmelo Lauricelli regia, Miriam Lucchetti in assistenza insieme a Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi vi aspetto 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci e anche gli WhatsApp scritti se volete, eh. Certo, siete incontentabili, eh? Rivoglio i Rolling Stones, ci dice qualcuno. Basta, no, ragazzi, prima non li volete e poi li rivolete. Non siete mai contenti, mai contenti. Mamma mia. Giornata di ieri, sì, il MES naturalmente, lo snodo politico sicuramente di queste ore. Bisogna vedere quanto è sostanza e quanto è cinema, Quanto è dovuto al fatto che il Partito Democratico abbia bisogno in questo momento, lo scrive bene Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, di marcare una posizione, di dire noi siamo qua e non siamo succubi del Movimento 5 Stelle. E quanto... Poi la sostanza c'è, sul fondo salva stati, parliamoci chiaro, c'è, è oggettiva, però, il fatto che esploda così forte adesso con questa lettera di ieri di Zingaretti al Corriere potrebbe far pensare anche questo. Giornata ieri caratterizzata da questo, ma caratterizzata anche da questa visita di Salvini a Mondragone, provincia di Caserta, là dove ci sono stati quei casi di Covid, nei palazzi ex Cirio, in questa specie di buco nero nel quale risiedevano e risiedono centinaia di persone, spesso in gran parte straniere, in gran parte impiegate nei campi, lo abbiamo raccontato la settimana scorsa, anche minorenni a 75 centesimi l'ora. Perché 75 centesimi e 3 euro agli uomini? Perché lavorano di meno i minorenni, cioè funzionano meno, sono meno forti e quindi nei campi reggono meno e quindi sì, 75 centesimi. E le donne infatti 1,50 euro. Questo, Comunque, ieri Salvini a Mondragone, contestato e costretto a lasciare il posto. Via, buffone! manifestarmi, dice Salvini, in mezzo alla folla, erano i centri sociali. No, è la camorra, evidentemente alla camorra non fa piacere che qualcuno parli di legalità. Tornerò a Mondragone perché il problema della criminalità ovviamente non lo risolvono i centri sociali al servizio della camorra. Mi auguro che la condanna sia unanime, perché non so che immagini siate riusciti a far vedere, però lancio di bottiglie, di bastoni, di uova, aggressioni a giornalisti, e questo è, poi c'è stata anche la carica della polizia. Così la giornata a Mondragone di Matteo Salvini. E questo ci porta, direi, al tema dell'epidemia, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che la fine della pandemia è tutt'altro che vicina. E io lo adoro il professor, tra tutti i virologi direi che forse gli infettivologi che abbiamo sentito, forse il professor Lopalco è uno dei miei preferiti per la chiarezza con la quale dice le cose. Infatti l'abbiamo ospitato spesso qua. Sentiamolo Carmelo, sentiamolo. Il virus è fondamentalmente lo stesso, cioè se prendiamo una singola particella virale non è cambiata granché rispetto a qualche mese fa, allora almeno non abbiamo le prove che sia cambiata. Quello che è cambiata è la circolazione del virus, è una circolazione a bassa intensità, cioè ci sono meno portatori in giro, i portatori che abbiamo in giro sono per lo più asintomatici e quindi hanno cariche virali più basse. Questo non vuol dire però che dobbiamo lasciarlo circolare liberamente. Gualtieri dunque, e veniamo al ministro dell'economia sul MES, il Fondo Salva Stati, sul quale ieri ospite in onda di David Parenzo e Luca Telese, in realtà non dice una parola definitiva, dice è necessario un approccio pratico. Sarebbe opportuno avere un approccio pragmatico, e peraltro lo stesso Conte e anche tanti esponenti dei 5 Stelle hanno detto: ma noi poi alla fine vogliamo vedere, esaminare nel dettaglio, in modo pratico, questa questione. E forse è anche corretto affrontarlo al momento giusto, perché adesso noi stiamo in questo momento, in un momento davvero cruciale del negoziato. La valutazione la faremo al momento opportuno, dice Gualtieri. Possiamo esaminare con grande attenzione, con tutti gli esperti che sono molto attenti in queste cose del Movimento 5 Stelle, in modo pratico e pragmatico fare una valutazione congiunta dei pro e dei contro di tutte le opzioni. Lo faremo al momento giusto e io sono certo che tutti insieme raggiungeremo la soluzione più razionale. Cara Flavia Perina, scrivi per l'inchiesta, per la stampa. Come stai, Flavia? A me sembra che qua l'approccio pratico conti molto, c'è un approccio molto politico sul MES, sul Fondo Salva Stati, no? Che dici? Sì, c'è un approccio molto tattico. La sensazione è quella che il problema dei partiti sia prima andiamo a vedere che succede alle regionali e poi prendiamo le decisioni importanti per il paese, perché al momento l'attenzione è concentrata su questa tornata di settembre delle elezioni regionali. 5 Stelle non vogliono fare passi indietro perché già sono in grande difficoltà, si aspettano già un risultato piuttosto deludente, non vogliono peggiorarlo ulteriormente. Il PD non è nelle condizioni di fare prove di forza in questo momento, anche il PD sta facendo un disperato tentativo di trovare accordi sul territorio per evitare nuove sconfitte imbarazzanti, e quindi il rinvio delle partite principali della crisi è legato in larga parte a questo, altro che approccio pragmatico e razionale. Ci sarà magari, però ci sarà il gioco dopo il risultato. Sì, prima le regionali, prima le amministrative, quindi forse anche un giro di secondo turno. È un giro neanche così importante, sono 6 elezioni regionali dove soltanto in due casi praticamente sono giudicate contendibili, la Puglia e le Marche, insomma non è una di quelle tornate come è stata la tornata in cui votava l'Emilia Romagna, che è un po' le madri di tutte le battaglie. È una tornata elettorale piuttosto modesta, però per i partiti ormai questi test sono diventati degli stress test che li fanno impazzire, li fanno perdere. Sì, ormai a differenza degli Stati Uniti, no, abbiamo delle midterm costanti, cioè delle elezioni midterm ogni sei mesi più o meno, nelle quali di fatto si decide la sorte dei partiti e delle maggioranze ogni sei mesi, ogni anno o quel che è. Queste tra l'altro sono ore nelle quali si sta decidendo e ragionando su questo famoso decreto semplificazioni. Oggi trovate molte cose sui giornali, dettagli sul Sole 24 Ore, che già aveva qualche anticipazione della giornata di domenica, e poi andremo in rassegna stampa a leggere qualcosa sia su questo sia sui commenti che ci sono. Qua sta emergendo piano piano, Flavia, l'ipotesi di nuovo di un condono, che anche quello potrebbe creare qualche frizione all'interno della maggioranza. Beh, no, quello sicuramente. 5 Stelle sono programmaticamente contrarie a ogni forma di condono. Il condono, se per caso è discusso, viene discusso perché il paese ha bisogno anche di soldi. Se noi non... i fondi europei del Recovery Fund sono al di là da venire, se ne parlerà tra sei mesi, il MES non accediamo e abbiamo fatto debiti imponenti per sostenere l'emergenza Covid, immagino che ci siano, cominciano ad esserci dei problemi di cassa consistenti, quindi è un po' un imbuto in cui ci si è infilati e alla fine probabilmente ne uscirà fuori qualche forma di agevolazione un po' mascherata, un po' camuffata, gli troveranno un nome carino, per evitare non condono, però diciamo la fantasia, ora c'è anche l'inglese a affidarsi, diranno bonus casa magari si chiamerà, oppure qualcosa di più carino e qualcosina si farà. Bonus aggiunta edilizia o cose di questo genere. Sì, sì. Vedremo che cosa troveranno di fantasioso. Cosa abbiamo ancora da sentire? C'è stato il grande tema della cassa integrazione, sicuramente, e più in generale dei provvedimenti del governo per il lavoro. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, come avrete capito, il governo vuole andare avanti fino alla fine dell'anno, appunto, sia con la cassa integrazione che col blocco dei licenziamenti. Le due cose si tengono. È chiaro che se tu blocchi, impedisci alle aziende di licenziare fino a dicembre anche a quelle che sono in difficoltà, è chiaro che devi prorogare anche la cassa integrazione fino a dicembre, perché se non possono licenziare devono tenere dei lavoratori dei quali evidentemente non hanno bisogno, bisogna trovare il modo di sostenere questi lavoratori. Dunque, Gualtieri su questo tema, sempre in onda ieri. No, noi dovremo prolungare il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione. Dovremmo gradualmente renderli più selettivi in modo da sostenere integralmente i settori più in difficoltà e fornire gli incentivi giusti per ripartire. Così Gualtieri, il quale entra anche sul tema dei ritardi nel pagamento della cassa integrazione. Dice, insomma, ci sono stati, ma abbiamo compresso i numeri, ormai ci sono solo 20.000 persone in attesa. Poi ci sono vari strumenti, in Francia hanno introdotto senza il blocco dei licenziamenti un meccanismo per cui le aziende devono pagare una parte della cassa integrazione, in Spagna hanno introdotto il modello della decontribuzione per chi assume. C'è anche la questione importante di incentivare le nuove assunzioni e magari anche le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Noi faremo un mix di misure e faremo delle misure efficaci. L'ultimo dato che l'INPS ha dato è che tutti quelli che hanno fatto domanda fino al 31 maggio, solo 20.000 a metà giugno non erano stati pagati. Quindi fortunatamente, ma 20.000 ancora è un problema, però questo gap si è stato superato e tutte le domande che arrivano a giugno si stanno pagando. Quindi il problema fortunatamente è in via di superamento, però c'è stato, per effetto di una procedura barocca, complicatissima, che anche sarebbe stato meglio cambiare a monte, sulla prima fase della cassa integrazione ci sono stati dei problemi. Noi questo lo riconosciamo, abbiamo anche chiesto scusa collettivamente come governo, perché poi le responsabilità si assumono collettivamente. Oh, l'INPS, è stata proprio l'INPS a dire che questo famoso bonus babysitter può essere utilizzato anche per dare qualche soldo ai nonni, uno dei temi di discussione in queste ore. Ne parliamo tra un attimo, non prima di aver detto, cari amici e fratelli lombardi, ci tocca la mascherina fino a metà luglio, fino a metà luglio, il presidente Fontana. Continueremo ancora per 15 giorni, ho parlato a lungo con tanti esperti e penso che per una questione di precauzione valga la pena, visto che i numeri stanno andando bene, è giusto proseguire in questa direzione. Avete provato in questi giorni com'è? Se vivete a Milano, a Bergamo, insomma in qualsiasi luogo della Lombardia, ragazzi, fanno 30 gradi, 30 e passa gradi con un tasso di umidità del 70%. Capisco la precauzione. Il pensiero mi manda ai matti, traffico. Due note agli ascoltatori. Uno ci dice, non dico quello che dice sul ministro Gualtieri perché è troppo cattivo, però dice: ho una cinquantina di amici ai quali la cassa integrazione non è ancora arrivata, nemmeno un centesimo, e solamente a Cesena. Anche qua sui numeri bisogna vedere, perché come sapete su questo c'è una discussione. Sono le domande, l'INPS ti sta dicendo, ti sta parlando delle domande che ha già elaborato o delle domande che sono arrivate? Perché capite che qua c'è la differenza. Per cui se ti dice, se ti parla delle domande che ha già elaborato e manca, ti dice mancano 20.000 pagamenti, è un conto. Se ti parla delle domande che sono arrivate è un altro, e quelle che deve ancora elaborare, perché il numero, il vero snodo è esattamente questo. Ed è là poi che intervengono anche gli imprenditori che in parte stanno pagando questa cassa integrazione. E l'altro ascoltatore che sul MES, sul Fondo Salva Stati, dice: quindi visto che le regionali sono a settembre, facciamo melina fino a settembre? Caro mio, pare proprio di sì. Il bonus nonni. Scusate, è che qua ha ragione la ministra Bonetti, e poi è intervenuta a effetto notte ieri, sentirete la sua voce tra poco in GR24, che dice: ma insomma, noi sto bonus babysitter l'abbiamo fatto apposta per tutelare la salute dei nonni, per non mandare i bambini dai nonni, e che fai? Che fai INPS? Mi fai dare 1200, fino a 1200 euro ai nonni? Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, buongiorno, come sta? Bene, De Palo? Ringraziamo Dio, diciamo che anche io sorrido per queste situazioni fantasiose che complicano invece di semplificare. Complicano, dice lei, ma a proposito, lei, voi li avete sfruttati i nonni? Lei li ha sfruttati i nonni? Io ci abito nello stesso palazzo. Ma è il secondo giorno che pesco persone che hanno i genitori che abitano nello stesso palazzo. Divento matto, perché noi invece siamo fatti tre mesi di lockdown. Ma non così li abbiamo sfruttati per tutelarli. Due, perché dipende se i nonni si prestano, quindi non è automatico. La dura denuncia di De Palo contro, dura denuncia di De Palo contro i nonni che non hanno. I nonni sono tutti buoni, dipende, ecco. Questa narrazione del nonno che non aspetta altro che tenersi i nipoti, diciamo, ecco, non è proprio così. Senta De Palo, che ne pensate di questa ipotesi dei soldi anche ai nonni, dei soldi del bonus babysitter dato anche ai nonni? La domanda che io pongo è: ma perché non abbiamo dato i soldi direttamente alle famiglie come avevamo chiesto noi del forum, e invece li abbiamo spezzettati? Un pezzetto al contratto in un certo tipo, un pezzetto al nonno, un pezzetto alla babysitter, un pezzetto. Ma non era più facile dare, come era stato detto, tenendo anche presente, cosa che questo bonus non tiene presente, il numero dei figli? Cioè dando un valore anche alla composizione familiare. Perché dobbiamo complicarci le cose in Italia? Questa è la domanda vera. E che dobbiamo fare? È chiaro che quando arrivano risorse alle famiglie noi siamo contenti perché sappiamo quello che vivono le famiglie, ma date così, senza una ragione, e forse tornando indietro sui propri passi proprio perché si è visto che non si è data una risposta concreta, non è un bel segnale, anche perché i nonni non si devono pagare. Va a toccare, diciamo, va a minare un po' questa solidarietà intergenerazionale che è anche la forza del nostro paese e che dovremmo continuare a, diciamo, a renderla gratuita. Quindi non è un bel segnale. Poi, per carità, le famiglie ne hanno bisogno e va bene. Sì. Io Flavia Perina, se sei ancora in linea, io ho un sospetto. Ho un sospetto che queste cose vengano rese complicate per far sì poi che questi soldi non vengano spesi interamente. Sì. Ho un po' questo sospetto, perché se la fai troppo facile, i fondi vanno via tutti. Sì, è possibile, tant'è vero che noi sappiamo che storicamente, anche prima dell'emergenza Covid, moltissimi dei fondi riservati a sostenere le famiglie non sono mai stati rivendicati a causa di procedure veramente bizantine. In questa circostanza io vorrei precisare ulteriormente il ragionamento che fa De Paolo, cioè questi soldi dovevano essere destinati specificamente alle madri lavoratrici, che sono quelle che si sono trovate nell'enorme difficoltà di dover scegliere fra lavoro e assistenza ai figli nel momento in cui le scuole sono rimaste chiuse, e si troveranno a fare la stessa scelta in settembre quando non si sa bene in che modo riapriranno soprattutto le scuole dell'infanzia e gli asili. Quindi doveva essere, posto che l'Italia non è che ha risorse per pagare tutti, non abbiamo risorse illimitate, chiaro, le risorse sono piuttosto modeste, si doveva scegliere una categoria da aiutare e sicuramente la categoria era quella delle madri lavoratrici. Abbiamo visto dei dati impressionanti anche dell'Istat sul numero di donne che quest'anno, dopo il primo figlio, ha lasciato il lavoro, perché probabilmente perché non è in condizione di gestire un bambino piccolo da solo senza servizi. Quella sarebbe stata la finalizzazione, la mossa, con una procedura semplice per aiutare queste persone, anche solo poi persone coraggiose, perché oggi chi mette al mondo il primo figlio, il secondo figlio in Italia è una donna coraggiosa. Che dice De Paolo? Poteva essere una scelta quella di destinare questo denaro appunto alle madri, eh? Beh, noi siamo per la semplificazione, quello che diceva lei, che molte volte queste misure sono complesse proprio perché l'idea è quella. Noi abbiamo dato A, B, C, D, E, F, G, poi però alla fine sembra che queste richieste non vengono prese in considerazione, forse non ce n'è bisogno. È un po' la logica che sta alla base ormai da tanti anni dei vari bonus. Io ricordo che sono stato chiamato da vari ministri dicendomi: guarda, il bonus babysitter, il bonus natalità non lo prendono. E la mia risposta è sempre stata: ma è normale che non lo prendano, ci vuole la laurea per prenderlo, devi fare 20 file per avere l'ISEE da una parte, dall'altra, le famiglie per avere 200-300 euro alla fine ti dicono: guarda, se ti dico, preferisco evitare. Questa però è una logica assolutamente che abbiamo solo nel nostro paese. Era stato chiesto dalla ministra, infatti penso che la ministra Bonetti sia anche un po' piccata per questo, proprio perché quello che lei chiedeva, anche una proposta del forum, che appunto l'assegno unico universale per ogni figlio, era un po' una risposta che andava a dare a tutto tondo delle risorse direttamente alle famiglie senza dover complicare la situazione, che poi è quello che è avvenuto in Germania, è quello che è avvenuto negli Stati Uniti. Tra una cosa, cose semplici, prego De Paolo, rapidamente, siamo in chiusura, prego. Il problema è l'assistenzialismo. Cioè, le famiglie non vogliono l'assistenzialismo, non vogliono l'elemosina, non vogliono mettere la mano fuori dal finestrino. Le famiglie vogliono essere messe nelle condizioni di aiutare il paese. È proprio una questione totale di sussidiarietà rispetto all'assistenzialismo invece che qui abbiamo assistito con questi decreti. Sì. Grazie Gigi De Paolo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Flavia Perina dell'Inchiesta e della Stampa. Chiudiamo la battuta dell'ascoltatore. Per uscire di casa servivano i cani. Ora tutti in cerca dei nonni per beccarsi 1200 euro. Non male. Ci sentiamo tra poco dopo GR24 con la rassegna stampa.